andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. Gli ho dato fiducia e hanno fatto dell'ironia sul terremoto. Allora, ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Pronto? No, non ho detto gioia. E il conduttore? Siamo ad alti livelli qua, Vi voglio benissimo, viva la topa! Amico mio, sono carichissimo, so che non sei in postazione, so che sei a Piazza di Pietra dove Berlusconi sta parlando, fra poco farò ascoltare al popolo della radio, al popolo della zanzara, quello che sta succedendo, delle frasi di Berlusconi che sembrano un'incoronazione nei confronti di Salvini come nuovo leader del centrodestra, ma ovviamente tutta la politica è in movimento. Bravo. Però ti voglio dire, amico io mio, ti una... voglio dire che la notizia prima che ti posso dare è Berlusconi da 20 minuti è entrato. Io mi trovo davanti, non ha detto nulla, gli ho detto presidente, lui mi ha salutato ed è entrato. Vabbè, questa non è una notizia, poi? No, vabbè, e sono davanti alle macchine della scorta di Berlusconi, sono qui, davanti, non c'è nulla di più che ti posso dire, quello che avevi già detto prima, è incoronato Salvini, quello che farà il colle. Però c'è una buona notizia, Possiamo amico... chiudere qua per me? No, come possiamo chiudere qua? È solo l'inizio, amico mio. Allora, senti, ti devo dire una cosa, tu non sai, oggi è una grande giornata per questa trasmissione. E dopo diremo l'amico come si chiama? L'amico Di Freddi deve farsene una ragione. Abbiamo vinto. Pier Giorgio Di Freddi deve farsene una ragione, ma sentiremo dopo. Abbiamo vinto noi, amico mio. Abbiamo vinto. Voleva mandarci sotto processo per uno scherzo che gli abbiamo fatto, il signor Di Freddi. Sentiremo tutto dopo. La seconda notizia è che quelli di Famiglia Cristiana si sono incazzati di brutto, amico mio. Questo era prevedibile, diciamo, si sono incazzati di brutto. Mamma mia, telefonate, fate smettere questa cosa qui, centralini bloccati. Ma ne parleremo dopo anche di questa cosa, una puntata caldissima che inizia con le frasi di Berlusconi su Salvini. Sentiamo. Adesso ci sono trovati questo goleador che è Salvini, l'ho sentito. Pure milanista. Sì, è milanista e penso che gli piacerebbe di fare il vicepresidente del Milan. Salvini goleador, gli piacerebbe fare il vicepresidente del Milan. Secondo me non gli piacerebbe per niente fare il vicepresidente del Milan, ma Berlusconi la butta in caciara. Ancora Berlusconi su Salvini. Come io non ho ambizioni politiche, ma voglio solo riportare il mio paese alla democrazia e garantire a tutti i cittadini quella libertà di cui oggi nessuno può essere davvero sicuro, a me andrebbe anche bene di fare il regista dietro Salvini. Non ho segreti, non ho cose da coprire, questa è la mia posizione. Questa però è una frase importante, Berlusconi regista dietro Salvini. Pensa come sono incazzati nell'ordine dopo questa frase. Alfano e Cicchitto e giù di lì, no? Alfano, Cicchitto e giù di lì, e giù a scendere, Cicchitto, Zio Formigoni e questi qua. Beh, ma anche qualcuno nella Lega, il signor Tosi per esempio, no? Signor Tosi ed altri. Cioè lui dice, io faccio il regista, poi c'è il bomber Salvini. Comunque, quando parla bisogna dire la verità, Sarà invecchiato, avrà la faccia scavata... È sempre numero uno, Quando no, era carichissimo, guarda, io l'ho visto. Mi è sembrato carichissimo. Si è anche girato e mi ha salutato. Vabbè, questo ti ha salutato, avrebbe salutato chiunque, soprattutto avrebbe salutato, soprattutto una bella figa avrebbe salutato, scusa, amico mio. Io non lo so, però mi ha proprio salutato, mi ha detto presidente. Vabbè, ti ha salutato. Ho capito, ti ha salutato. Ma è normale che ti ha salutato. Si è proprio girato. Ma che c'è? Vabbè, si è girato, certo, hai detto presidente, quello si è girato. C'è dell'altro su Berlusconi? Beh, aspetta, Alfano, aspetta, eh. Aspetta, Berlusconi. Berlusconi sì. Su Alfano. E Alfano, la delusione, le solite cose. Però sentiamo Berlusconi. No. Se mi consente, nel mio partito le persone che mi vogliono bene mi considerano una vittima, un martire, un eroe. Agli eroi non si possono fare delle basse critiche di potere. A un eroe non si possono fare basse critiche di bottega. E questa ma ti posso dire di più? Dimmi. C'era la signora Maria Stella Federici che mi ha salutato caldamente. Beh, grandissima la contessa, quale, baronessa, sì. La quale, madame, ma dico, oh, io sento sempre la zanzara, adoro tutto quel sesso. Dico, scusi, signora Maria Stella, però. Beh, Maria Stella Federici, secondo me ha qualcosa da dire anche su quel fronte, signora Federici. Salutami Giuseppe, ha detto, io non so. Beh, insomma, Maria Stella Federici è un mio, come dire, non dico io. Un sogno erotico. Beh, sì, un sogno erotico, beh, lo confesso. Oh, Maria Stella Federici, vorrei fare... Vorrei passare una nottata di sesso pazzesca, no, la signora Marisela Federici. Sì, ma beh, che ti do? Che ti do? Ora questa posso avere una perversione o no? Andiamo a Piazza Indipendenza. Allora, eccoci. Ferrara, signor Ferrara, la pensa un po' diversamente. Dice che Salvini non è in grado nemmeno di mettersi una camicia. Questa è buona, però, bisogna dire la verità, Cioè, signor Ferrara. Solo felpe. Senti. Io sarei attento adesso a dire Berlusconi è finito, è il momento di Salvini, il nuovo capo. Tanto ci vogliono molti soldi di Putin per arrivare a gareggiare veramente nella politica italiana. Poi ci vuole una dimensione nazionale che non mi pare Salvini abbia, e poi ci vuole anche il fatto che insomma uno a un certo punto si toglie la felpa, si mette una giacca normale e una cravatta accettabile, ecco, cosa che Fini non ha mai fatto e maglie ne incolse e Salvini non mi sembra in grado di fare. Cosa c'è di altro? Beh, ho visto, a parte queste cose, queste convulsioni all'interno del centrodestra, abbiamo già un ospite pronto, Parenzo, che si trova sul taxi, si sta facendo portare a Piazza Indipendenza. Ho visto questa mattina... Ma saremo là insieme allora? No, io sono a Milano. Allora, no, ma con l'ospite! Sì, non so niente. Aspetta un attimo, c'è un'altra cosa che ti devo dire, perché questa mattina vedendo la televisione ho visto la madre di Corona, cioè Gabriella Corona, sì. Ovviamente una madre che sta soffrendo per il figlio in carcere, dunque tu la solidarietà e tutte le cose di prassi e che si devono dire in questi casi che io non sopporto ma che bisogna dire per forza perché sono altrimenti passi come quello violento, come quello che non ha pietà per nessuno, è una madre che ovviamente soffre per il figlio in carcere, però dice Fabrizio non è un criminale, non può perire in carcere e su questo siamo d'accordo, nessuno vuole che uno muoia in carcere, però amica mia, cioè, ci sono dei reati commessi, cioè non è che si possono fare eccezioni rispetto a tutti quelli che sono in galera nelle stesse condizioni del signor Fabrizio Corona, amica, non si possono fare eccezioni, dunque non si possono dare grazie così a caso. Sentiamo. Se lui non avesse avuto questa sentenza ingiusta, mio figlio già sarebbe a una pena alternativa e si potrebbe recuperare. Io non posso accettare che mio figlio mi perisca in carcere, non lo posso accettare, perché non è un criminale. Allora se la mettono così mi mettano dentro i veri criminali, allora sto zitta. Allora abbiamo con noi il direttore del giornale Alessandro Sallusti, ben ritrovato, oh. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Compagno Sallusti. Perché lo chiami compagno Sallusti? Compagno direttore, io ormai leggo l'Unità, cioè l'Unità non c'è più, leggo il giornale ormai. Vabbè, perché tu è la solita cosa che si dice, no, che il giornale è diventato filo. Il giornale renzianissimo, ottimo. Io mi dispiace, non vorrei fargli perdere copie dicendo che io ogni giorno il primo giornale che leggo alle 7 del mattino è il giornale che per me è l'Unità, quindi magnifico compagno Sallusti. E vabbè, è Parenzo Sallusti, scusi. Sì, lo conosciamo, è Parenzo. Allora, io voglio dire una cosa, è vero o no che... allora, oggi Berlusconi ha appena parlato e ha detto che Salvini, lui farà il regista dietro Salvini, e pochi giorni fa diceva che in realtà è quasi un buono a nulla Salvini, diceva non ha fatto niente, un chiacchierone, eccetera, eccetera. Ecco, secondo il direttore del giornale, Salvini può essere leader del centrodestra, sì o no? Beh, al nord sicuramente, beh, nord. non è una novità, perché adesso ci stupiamo tutti di questa alleanza, ma questa è l'alleanza fondante del centrodestra nel 1984. Sì. Berlusconi si alleò al nord con Bossi che è al sud con Fini. Sì. Quindi credo che questo schema può essere ripetuto con Salvini, Alfano addirittura. Cioè, sì, ma il leader chi è? Berlusconi il leader è un federatore, Forza Italia di suo non ha mai avuto la maggioranza. Ma il leader chi può? Cioè, può essere leader Salvini o no? Sallusti, questo è il punto fondamentale. Leader di tutto io credo di no, perché non è accettato. Il leader deve essere riconosciuto. Allora Salvini è riconosciuto dal suo popolo ed è anche, come dire, simpatico al popolo di Forza Italia, ma non è riconosciuto dall'apparato di Forza Italia e quindi non può essere il leader di tutti, non può essere il leader di tutti, immagino di no, però come in realtà era possibile che Bossi fosse il leader di tutti, no, era il leader della Lega. No, d'accordo, però c'è oggi da dire una cosa, oggi Berlusconi l'ha quasi incoronato, questo fa il goleador, certo. Io sono il regista dietro Salvini, cioè in questo momento, cioè Bossi non ha mai avuto una forza di trascinamento come quella di Salvini, adesso cioè, siamo chiari, Bossi era un leader, è stato un leader regionalista, Salvini sembra avere una spinta in più, forse perché è più giovane, ha più anni davanti. Beh, sono passati anche 20 anni, sono successe tante cose. Ma è un politico di professione pure lui, secondo te? Sì, beh certo, ha sempre fatto solo quello, non mi risulta abbia lavorato un giorno in vita sua, è un politico, bravo, sa intercettare. Però non può essere leader di due del centrodestra. Ma io non ce lo vedo la Gelmini ubbidire a Salvini o Fitto ubbidire a Salvini o seguire Salvini, questo è il problema di mettere assieme, mentre nel 94 non c'era nulla e quindi era facile mettere assieme delle cose, sì. Oggi ci sono delle situazioni personali che sono. Però mettiamo che uno fa la. Sì, ma questo lo capisco, che è difficile immaginare che la Gelmini o Fitto, che ne so, anche Verdini, obbediscono a Salvini. Anche per me è difficile immaginare. Però mettiamo che si facciano le primarie. In questo momento l'uomo più forte è Salvini, non c'è dubbio. Sbaraglierebbe tutti, cioè, se non c'è Berlusconi, ovviamente, o no? Sì, questo potrebbe essere anche un passaggio interessante da provare, cioè, immagino che chi nel centrodestra pensava che attraverso le primarie di poter avere una finta incoronazione potrebbe rimanere deluso dal fatto che Salvini potrebbe vincere le primarie del centrodestra, ma avrebbe bisogno appunto di un passaggio di legittimazione popolare, non può essere un'operazione a tavolino, prendiamo Salvini e lo mettiamo lì, no. Perché i senatori e i deputati del Forza Italia non lo seguono. Se l'elettorato di centrodestra sceglie Salvini, beh, allora a quel punto è come Renzi. Secondo me è più popolare tra come Renzi, che piaccia o non piaccia, è quella roba lì. Secondo me è più popolare tra l'elettorato di centrodestra che nei notabili di centrodestra. Cioè Salvini viene sentito, adesso al di là di quello che dice, viene sentito come un leader di centrodestra possibile, anche dal popolo di Forza Italia, molti voti li ha presi lì. Sì. E non piace ai notabili. E questa è una cosa da verificare. Un attimo solo che abbiamo il traffico, adesso torniamo. Siamo al top ragazzi. Siamo qui in questa trasmissione che corre, bisogna correre come dei pazzi, una cosa pazzesca, ci fanno correre con questi tempi strettissimi, con Parenzo in taxi e il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Berlusconi ne sta dicendo di tutti i colori, è in grande forma, mi invitava Gheddafi, sta dicendo da Vespa, mi invitava alla cerimonia dei re, stupendo. Allora, ultima domanda politica a Sallusti ed è questa, ma il patto del Nazareno, secondo Sallusti, è vivo e vegeto oppure no? E perché conviene a Berlusconi? Sallusti? Beh, è vivo e vegeto sicuramente, finché interessa finché entrambi sono in grado di onorarlo, Renzi e Berlusconi. Ma ancora sono in grado secondo te? Al momento secondo me sì, anche perché è interesse comune dei due eleggere insieme un capo dello Stato che vada bene all'uno e all'altro. Ma è vero che Berlusconi gli interessa anche che non si facciano leggi contro, insomma, che si garantisca un po' di roba, adesso io la butto. A chiunque interessa che non si facciano leggi contro, ma non credo ad persona, ma anche perché non, all'orizzonte, voglio dire, non penso che ci siano altre. Ma si può dire che c'è anche la giustizia, c'è anche il Quirinale, c'è anche. Ma la giustizia non è un problema di Berlusconi, no, è un problema degli italiani. È anche un problema di Berlusconi. Cioè, c'è anche la televisione là dentro quel patto, cioè c'è una parte di patto del Nazareno, diciamo, che non conosciamo, sì. No, non credo, sarebbe uno scandalo, o no? No, ma non è che lo dico, non lo so, ma non mi risulta che ci sia quello. Mi sembra più probabile che nel patto del Nazareno ci sia un presidente che faccia quello che aveva promesso Napolitano, che Napolitano non ha fatto, cioè la pacificazione nazionale, che non può che passare attraverso una grazia al presidente Berlusconi. Ah, un prossimo presidente che dia la grazia a Berlusconi, dici tu. Vedo già il titolo di domani. Parenzo, non si sente niente, non si sente niente. No, allora, dico, vedo già il titolo di domani, ma non lo si... vedo già. Vabbè, io lo però voglio già chiedere un'altra cosa che non c'entra niente con la politica. Ma tu la daresti a grazia, la grazia a Corona, se fossi tu a decidere? No, la grazia no, come non è stata data la grazia a me. Gli darei una commutazione di pena, perché la vera porcata fatta su Corona per vendetta, perché secondo Corona è uno sbruffone, ha sfilato i giudici, gliene ha detti tutti coloro, è stata quella che la giustizia gli ha considerato i vari reati come ognuno isolato dall'altro, mentre c'è un'evidente continuità, cioè lui faceva quel lavoro lì, è stato accusato 10 volte di ricattare delle persone e quindi lo devi condannare una volta, e invece l'hanno preso 10 diverse, ogni volta gli hanno dato 2 anni e alla fine si è arrivata a quella sentenza, una commutazione della pena che lo porti dentro, come dire, una pena, un regime che gli possa consentire i domiciliari, cose di questo tipo. Avendo già scontato un paio d'anni di carcere, credo che a questo punto potrebbe anche andare ai domiciliari. Però scusami Alessandro, non è un po' assurda questa cosa qui, questa mobilitazione da parte di intellettuali, anche l'amico comune Vittorio Feltri ed altri ancora, nei confronti di Coroni? La trovo anche un po' offensiva nei confronti di qualcuno, cioè degli altri, o no? No, attraverso i casi famosi godono, ma credo che Feltri, conoscendolo, si mobiliterebbe anche per un illustre sconosciuto. Ripeto, lì c'è una vigliaccanza giudiziaria di condannarlo per ogni singolo reato al massimo della pena. Quando c'è una il reato è unico, quello che lui ha commesso, per cui invece che 4 anni se ne è presi 15. Se avesse preso la pena giusta, che è 4 anni, a quest'ora sono reati diversi tra loro. Uno è banconote false, un altro è la guida. No, ma quelle sono pene accessorie, cioè il grosso della pena non è quello. Il grosso della pena sono i vari casi in cui lui ha fotografato delle persone e poi ha chiesto dei soldi. Tu lo sai, Parenzo, che Sallusti ha deciso di dare 35.000 euro alla fine a Giuliani. Io l'avevo difeso. Io ogni volta che difendo qualcuno, signorini. No, non è esattamente così la questione. Non è esattamente così. È che io non volevo dare, perché non volevo dare questi soldi. Giuliani mi hanno chiesto un mucchio di soldi. Io ho detto, non se ne parla, si va a processo. La frase era: avevano fatto bene, c'è una sentenza che lo dice, perché il carabiniere che sparò a Giuliani venne assolto dalla legittima difesa, quindi fece bene a difendersi. Cioè, mantieni quella frase. A un certo punto i miei legali vengono da me e mi dicono: senti, la famiglia accetta di 20.000 euro, andare avanti in giudizio fino in Cassazione, anche se la vinceremo, ci costerà sicuramente di più, per cui l'azienda mi chiede per favore di transare 20.000 euro, più le spese, più tutto. Ma l'azienda cosa? Tu l'avevi detta quella frase, non è che l'avevi scritta? Certo che l'ho detta. No, l'avevi detta nel senso che non era un articolo, cioè quale azienda? L'azienda ti ha detto di... Cioè, non conviene economica, qui siamo di fronte a delle estorsioni, perché resistere in giudizio fino alla Cassazione ti costa di più che dargli 20.000 euro. Per cui alla fine gliene hai dati 35.000 per non avere più rotture di coglioni. Esattamente, ma non perché mi sono pentito o chiesto scusa, perché c'è una verità giudiziaria, il carabiniere che sparò a Giuliani venne assolto dall'accusa di eccesso di legittima difesa. Dunque tu mantieni quella fase? Cioè assolutamente. Cioè, mi sembrava... No, ma questo è giusto, perché io appena ho letto la cosa ho detto è impazzito. Cioè, no, io avrei voluto anche andare avanti in giudizio, ma capisco che buttare via soldi e tempo, insomma, però queste querele che sanno di ricatto, perché se loro erano veramente offesi non dovevano accontentarsi di una transazione, dovevano andare a giudizio, ribadire, e invece è così. Senti, l'ultima cosa, 20 secondi, che è questa, no, non possiamo più, niente, volevo sapere se Bianconi, che dice che Berlusconi si deve andare, ubriaco oppure no, è ubriaco secondo Bianconi te? Bianconi è un tipo abbastanza originale, è un amico, lo conosco, è ubriaco. Canaccio, non so se è ubriaco, ma è un tipo molto sanguineo, comunque è legittimo che la pensi come vuoi. Ciao, a presto, ciao Alessandro, ciao. Che tempi. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Vaffanculo! Ullala ragazzi, buonasera. Ciao Crucials! Siamo ad alti livelli qua. Buonasera, allora, siete due facce di merda ovviamente. ragazzi, Parenzo, come sai, ieri abbiamo dato il numero di Famiglia Cristiana agli ascoltatori per pronunciare una frase. Noi ascoltiamo la zanzara del vostro moralismo del cazzo, non ce ne frega niente. Tutto ciò aveva una ragione ben precisa. I signori di Famiglia Cristiana, gli amici di Famiglia Cristiana, avevano scritto un articolo in cui sostanzialmente si accusava questa trasmissione di istigazione all'odio razziale. Siccome noi abbiamo le nostre idee, io le mie, tu sicuramente diverse dalle mie su alcuni argomenti, possiamo anche sbagliare, ma tutto facciamo tranne istigare all'odio razziale. Cioè questa trasmissione non può essere paragonata, come hanno fatto gli amici, perché sono sempre amici di Famiglia Cristiana, alle radio che in Africa incitavano al genocidio. Ecco, questo non si può dire. E quelli che vogliono che noi andiamo sotto processo dal tribunale dell'AIA, dai tribunali di sto cazzo da Velletri, non lo so, e all'ordine dei giornalisti e non so dove, e beh, se uno attacca io rispondo e noi rispondiamo, e noi abbiamo risposto in questo modo. I signori si sono arrabbiati perché i centralini sono stati presi d'assalto. D'assalto. Uno si arrabbi, questo sì. Scusa, sì, vabbè, si arrabbia, però calma, signore, non è che noi ogni giorno adesso, se loro insistono, noi ritorneremo all'attacco. Signor Precisiamo che il numero del centralino non è che abbiamo rivelato il segreto di Fatima. Non è che abbiamo dato il numero privato del signor Shortino. Su Google, se uno va su Google. Abbiamo incitato, però, abbiamo incitato a chiamare. Però detto questo, avrei detto semplicemente, cari amici. No, vabbè, ma abbiamo detto di chiamare, lascia perdere il contenuto. Allora, la questione è molto semplice: non abbiamo dato il numero di Don Shortino, non abbiamo dato numeri privati, eccetera, eccetera. E il signor Don Shortino pare che abbia chiamato, io poi non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale, me l'hanno detto, rumors, voce di corridoio, abbia chiamato le alte sfere di questa azienda. Sì, Don Shortino. Amico mio, amico mio, però uno prima di accusare questa trasmissione di essere, capite, di istigare l'odio razziale, deve pensarci due volte, e qui si reagisce, non è che siamo qua, non è che porgiamo l'altra guancia, voi porgete l'altra guancia, forse voi di Famiglia Cristiana, noi no. Però due amici ascoltatori ci hanno mandato questa piccola clippettina. Adesso noi non vogliamo tornare su questa roba, però siamo quasi costretti. Cioè, non chiamate più, e quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, la reazione l'abbiamo ottenuta, cioè tranquilli, tranquilli, non chiamate più. Però due nostri cari ci hanno dimostrato cosa è successo ieri al centralino di Famiglia Cristiana. È successo questo, sentite. San Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno, è il centralino? Niente, io volevo solo dire una cosa, che io ascolto la zanzara e del vostro moralismo del cazzo non me ne frega nulla. Tutto qua. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Devo dire la verità, la risposta del centralinista è spettacolare. Ma buongiorno, quel centralinista grazie. M'ha premiato, scusami. Buongiorno, grazie. Ma è impeccabile, scusami. A un'altra ora del giorno risponde invece una donna, la quale butta giù, sentite. Gli operatori sono momentaneamente occupati. Vi preghiamo di attento. Radici San Paolo, buonasera. Okay, buonasera, chiamavo per un'informazione su un abbonamento. Deve chiamare allora il numero degli abbonati. Ah, perché guardi, io ho chiamato, però io sono un ascoltatore della zanzara, del vostro moralismo del cazzo, non me ne frega un cazzo. Questo è un po' esagerato, perché ha pronunciato cazzo due volte, è andato oltre quello che io avevo detto. Vabbè, ma ottimo il primo centralinista, devo dire, onore al merito, bravi, bravi. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il Papa davanti al Parlamento europeo: bisogna restituire dignità al lavoro e accogliere i migranti. Il Mediterraneo non può diventare un cimitero. Renzi, il piano che stiamo approvando non riguarda il bene di un paese, ma il futuro di tutta l'Europa. Straordinario l'intervento del Papa, un regalo al semestre italiano. Sì della Camera al Jobs Act, 316 sì, 6 no, le opposizioni e 30 parlamentari PD lasciano l'aula, il provvedimento ritorna al Senato. Berlusconi all'ufficio di presidenza di Forza Italia, patto del Nazareno confermato, basta liti così perdiamo consensi, riunione aggiornata domani. I familiari delle vittime dell'Eternit a Palazzo Chigi chiedono 60 milioni per le bonifiche, il governo si costituirà parte civile se ci sarà un nuovo processo. A Ferguson negli Stati Uniti non è stato incriminato il poliziotto che aveva ucciso il 18enne di colore, mancano prove, proteste e scontri in diverse città. Oggi giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La testimonianza di Francesca: ho denunciato dopo 30 anni perché mi vergognavo. Ieri sera a Milano, fiaccolata per Lea Garofalo. Se io ascolto la zanzara e del vostro moralismo del cazzo non me ne frega nulla. Tutto qua. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Voci rom da Tor Sapienza. Sentite. No stop signs. Da dove viene tutta questa roba? Questo? L'abbiamo rubata. Abbiamo rubato appartamenti, tutte cose qua. Anche dentro le case, negozi, così. Sì, tutto così. E poi ve la rivendete. Se vengo io a casa vostra per fare foto a te, a tuo marito o a tuo figlio. No, questo... ma ho chiesto se, potevo, chiesto se potevo passare. A chi ha chiesto? C'è uno a casa qua che comanda questo campo. Ringraziate Dio che non vi menano la gente qua. Dovete ringraziare Dio che non tirano i bastoni a menarvi. I bastoni a menarci no, ma quando usciamo... Questo è lo stato della nostra macchina quando usciamo dal campo. Vetro distrutto, attrezzatura rubata. Allora, per carità, poi si può discutere a lungo del perché esistono i campi rom, se devono esistere o non devono esistere. Una cosa è chiara, caro Parenzo, la si può pensare come te o come me sui rom, la pensiamo in maniera diversa, che nei campi rom, in quel campo rom, non diciamo nei campi rom, in quel campo rom che si è visto ieri sera durante la trasmissione di Formigli, in un bellissimo servizio, c'è un'illegalità a ogni metro. D'accordo. Roba che brucia, gente rubata, roba rubata, eccetera eccetera. Allora io dico una cosa: siccome è entrata una giornalista lì, ha verificato l'illegalità, io mi domando perché al posto della giornalista non c'è un carabiniere, non c'è un poliziotto, non c'è un finanziere. Ne abbiamo a tonnellate in Italia, no? Di corpi di polizia. Non, certamente non me la prendo con loro perché devono essere mandati lì da qualcuno. Allora, questa illegalità deve terminare. Sì, cioè, non è possibile che c'è un fumi di roba che viene bruciata, roghi, roba. Chi difende questa punto, roba? Basta. No, ma nessuno. Non ti sto dicendo che tu stai difendendo questa roba qui. Ti sto dicendo perché che adesso qualche idiota del Riccardo Fan Club, basta, però, che succede? O altri personaggi chiameranno dicendo: ecco il difensore dei rom. No, no, l'illegalità mica la difendo io. Dove andiamo? Andiamo. No, c'era uno che volevo sentire che prima era collegato. Chi era? Massimo Livorno, Massimo. Dai, Massimo. Buonasera. Dimmi. Buonasera, Cosciani e Parenzo. Ciao. Vai. Caro, ciao. Allora, volevo dirvi questo. Vabbè, io intanto subito sui rom. Sono d'accordo con Cruciani. Assolutamente d'accordo. Sono d'accordo. Basta con l'eccessivo buonismo. Ora, senza arrivare a fare delle crociate, ma secondo me Cruciani ha assolutamente ragione. Vabbè, poi? Quindi diciamo che si sente necessità di maggiore rispetto delle regole, e credo che per quel che riguarda l'immigrazione si debba fare un discorso lungo, solo giusto un attimo. Cioè, no, non c'è un discorso lungo, Massimo, okay. Andiamo al sodo, dai. No, solo per un minuto, 10 secondi. Spezzare il meccanismo perverso dell'immigrazione, cercare di aiutarli nei loro paesi d'origine. Ecco qua. Detto qua, poi? Basta. Poi, quindi recuperare un pochino di senso della nazione, un moderato nazionalismo e opporsi al moderato. Moderato nazionale, non ho capito una mazza. Armando da Palermo, ciao Massimo. Armando. Ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta, tu che una zanzara, tu sei un tafano, Cruciani, con tutto rispetto. Sì. Come si può definire tafano, il numero uno? Tafano, il Massimo. Però. Mi fai parlare senza interrompere. No, ma tafano hai detto, però tafano in italiano, poi va tutto bene. No, ma si può anche sbagliare. Avanti. Si può anche stare. Comunque, dico, come si può chiamare ancora il numero uno Berlusconi? No, Berlusconi nella comunicazione. Io ho detto che è il numero uno. A parte che l'ha detto anche Parenzo, ma non hai capito una mazza. Ma in questo senso qua... Mi sarei vergognato anche di esaltare la sua comunicazione, perché è buona per i beoti. No, vabbè, non è buono nemmeno a comunicare adesso Berlusconi. Lobotomizzato sarai tu innanzitutto. Io non mi sono mai lobotomizzato per nessuno, non sono mai stato lobotomizzato da qualcuno, per cui al massimo lobotomizzato sarai tu. Sì, vabbè, detto questo, cioè, come si fa a chiamarlo numero uno in qualsiasi campo, uno che ha trattato con un mangano in capo va della mafia. Va benissimo, tu puoi dire quello che vuoi. I numeri uno sono anche i criminali, volendo. Cioè, ma i numeri uno, dal punto, da un certo punto di vista, sono anche i criminali nel loro campo. Questo sto dicendo. Al Capone nel suo campo era il numero uno. Al Capone nel suo campo era il numero uno, o no? Hitler, Mussolini, tutti no. Il numero uno. E beh, certo, che vogliamo dire che Hitler non è stato numero uno. Certo che è stato numero uno. Nel suo campo è stato numero uno. Infatti era il capo. Era un orrendo numero uno, però era un numero uno. C'è poco uno che prende. Era un orrendo numero uno anche Berlusconi. Ma io non sto dicendo questo. Io mi sono limitato, questo discorso generale, a dire che come comunicatore, insomma, tant'è che le frasi su Salvini, nostro premier possibile, Salvini, bomber, io regista. Ma va benissimo, secondo te lo fa per salvarsi il culo e può darsi che abbia ragione, ma dal punto di vista della comunicazione ancora mi sembra efficace, ancora pesa, ancora conta, la gente sta lì a sentirlo con Vespa, poi magari fra poco scomparirà nel nulla. E che ti devo dire? Un attimo, fermi. Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Chiama ad alti livelli qua. C'è sempre meno figa. Da voi in trasmissione. Voglio avvertirti, Parenzo, che stanno per tornare i forconi, stanno per i forconi, ti giuro, stanno per tornare i forconi. Snob, ma io hanno forconi. Annunciato per l'inizio di dicembre una grande mobilitazione personale. I forconi tornano, sì, e hanno tutto un programma, lo potete vedere su internet, un programma in cui addirittura c'è mettere sotto processo praticamente tutti. Ma il sito cos'è? www.forconi.it? No, il sito è www, non mi ricordo come, www.forconi.it. A dicembre.it stanno per tornare i forconi, capitanati sempre da quel signore che si chiama Calvani. Vabbè, anche simpatico. Sentilo, sì, Calvani, molto, un ciociaro simpatico. Sentilo. Allora, il movimento è un movimento di popolo, questa è un'iniziativa di popolo, il popolo italiano praticamente non si sente più rappresentato da questa classe politica, sì, che ovviamente sta usurpando la nostra Costituzione, i nostri diritti, sta primeggiando i loro interessi a danno di tutta la collettività, questo non è più accettabile. No, infatti. E devo dire delle cose originali, cioè, più accettabile, il popolo italiano, la collettività, rubano i soldi, eccetera, tutto nuovo. Noi non siamo solo la coscienza, no? A questo punto abbiamo anche, diciamo, formato una coscienza nazionale e conoscenza. Perché il problema è che molta gente non sa di che cosa si parla. Io invito tutti quei cittadini italiani, tutti, che si sentono tranquilli, che hanno la fortuna di stare bene economicamente, perché quindi giusto anche questo, Cruciani, e si sentono, ma diciamo, anche noi, questa lotta non ci interessa, andatevi a leggere il MES. Vi leggete il MES e poi dopo il due MES, minuti vi alzerete dalla sedia arrabbiati e direte cosa dobbiamo fare. Il MES. No, senti ancora. Andremo fino in fondo. Noi vogliamo prenderci le nostre istituzioni, restituirle al popolo. Vogliamo prendere, come vogliamo dice prendere la istituzioni nostra Costituzione, e restituirle al popolo. Voglio ricordare l'articolo 52 a tutti gli italiani. Inizia così: ogni cittadino ha il sacrosanto dovere di difendere la patria. Difendere la patria. Quindi io credo che questa cosa è necessaria. Come cittadini dobbiamo difendere la nostra Repubblica, la nostra Costituzione. È in pericolo. Signor Forcone, signor Calvani, una cosa pazzesca, dai, pazzesca. Sono tempi tornano duri, i Forconi. Ah, noi no. Non ce ne frega niente. Nulla. Almeno niente, apparenza un po' di più perché fa il buonista, eccetera. Vabbè, Giovanni da Campobasso, dai, fammi sentire Giovanni da Campobasso. Vai, Giovanni. Pronto, le caculi. Sì, eccolo qua. Eccolo qui. Le caculi di cosa? Leccaculo dei padroni. Noi leccaculo dei padroni, sì, cioè. Dei poteri forti. Io mi auguro con tutto il cuore. Sì. Specialmente a te, ma tutte e due, non è uno più uno meno. No, certo, tutte. Trovate un buon gabobbo. Ah, dobbiamo trovare un buon gabobbo. Ecco il pacifista. Devi ficcare il piccone in bocca. Sì, il piccone in bocca, bene. Ecco qua. Così non parlate più. Sì. Beh, sì, moriamo. E come mai, Giovanni, lei si augura per noi questa fine piuttosto, come dire, perché disdicevole? Tu bastardo che non sei altro. Sì. Hanno sparato, quel carabiniere ha sparato a quel ragazzino di 15 anni sul motorino, sì, che andavano in tre. Sì. E poi hai difeso quello che è morto, una naturale, di morte naturale, sì, ma del calciatore, che ti preoccupava che è morto un uomo che della famiglia, e di quel ragazzino invece facevi le parti del carabiniere. No, veramente io, scusami, io non è che prendevo le parti del carabiniere. Comunque, Giovanni, al di là di questo, io merito di essere ucciso da uno con l'accetta come Cabobo. Io non ho detto quello, ho detto che voi due, sì, voi due. Un Cabobo e ficcarvi il piccone in bocca. Io non è simpatico da dire, però, scusi. Se poi morite, morite. Beh, sì, certo, se poi crepiamo, crepiamo. Sì. Cioè, la cosa è può capitare, signor Giovanni. Con un piccone in faccia. Non è che ho detto può capitare, non è che deve capitare. No, può capitare. Se capita, lei è contento, insomma, sì. No? Io sono contento perché tu hai difeso quello della morte naturale del Trentino Alto Adige. Ma non è che l'ho difeso, è che l'ho attaccato. Sì, l'hai difeso perché dicevi con quello che era contento, che era un allenarista, sì. Sì. E lui era contento perché è morto un calciatore. Ma è certo che lo difendevo, non è che difendevo lui. Anche quello di Napoli, 15 anni. E perché non ha difeso quello di Napoli di 15 anni? Perché non ha difeso quello di Napoli, 15 anni? Ma tu che fai di mestiere, Giovanni? Ma che fai? Che radioascoltatore di Radio 24, di due imbecilli come vuoi, che chi difende Om e chi difende due pesi e due misure. Ma scusami, Giovanni. Ma tanto di Palenzi, Om se vedeva portare a casa sua, anzi andare a fare in culo da questo paese. Come dice, scusi, signor Giovanni? Andate via da questo paese. Sì, lei non sta usando un linguaggio da famiglia cristiana, signor Giovanni. Dove? Da Campobasso. Questo non c'è dubbio. Chiedo scusa, signor Giovanni da Campobasso. Scusi, gentile signor Giovanni. Non è irenico. Sì. Io parlo come cazzo voglio io. Giovanni, vabbè, scusi, esattamente voi. Se lei sta. Io parlo una volta al mese, sì. Voi parlate tutte le sere. Vabbè, sì, questo è il lavoro. Se questo paese fosse uno stato più serio, sì. Quella trasmissione, non quella trasmissione, a voi due. Sì. Sino, guarda, mi auguro che trovate un Cabobo. Ma come, perché sei fissato? Perché trovi un Cabobo? Ma perché trovi un Cabobo? Non posso esprimere questa espressione io. Sì, ma è terribile, scusi. Ma perché trovi un Cabobo? È una morte terribile. È meglio una pistolettata. Quello è stato sparato, non è stata una morte terribile. Però scusami, Giovanni, ma tu che di mestiere che fai nella vita? Ma mi interessa, dove sei per strada? Fai il camionista? Ma che te ne frega a te? Se fai il camionista, io. Amici miei, chiamate questo camionista, tempestatelo di messaggi. Noi ascoltiamo la Zanzara e di Giovanni non ce ne frega un cazzo, capito? Ma i camionisti sanno quando vi odiano. No, non ci odiano, i camionisti ci amano. I camionisti vi odiano. No, ci amano. Allora, quelli che vi amano non capiscono un cazzo, come i tassisti, come i camionisti. Determinati tassisti, camionisti e tu è determinato popolo d'Italia. Ma lei ce l'ha una vita? Se la danzassero tutto come me. Scusi. La trasmissione la danzara me la dovresti fare voi. Ascoltatori, solo quei paraculi. Scusami, ma lei ce l'ha una vita, Giovanni? Ce l'ha una vita? Lei ha degli affetti, una vita? Ce l'ha una vita? Una famiglia? Ma che discorso è questo qua? Io ho chiamato per un determinato. Non si è capito perché ha chiamato. Comunque. Ma tu qua conta a te la cosa, non ti conviene, dici che non hai capito. Vabbè, Giovanni, io ti abbraccio fortissimo. Ma fanculo la croce, mi avevi sentito cazzo. Ti abbraccio, posso dare un bacio in bocca? No, Giovanni, un bacio in bocca non lo vuole, dai. Siamo ad alti livelli qua. Ma ti pare possibile, Parenzo, che nel blog di Grillo si ospiti con tutte le cose di cui si parla, si ospiti un intervento del professore maestro Arrigo Petacco, il quale scrive che Matteotti non fu ucciso dal Duce. Adesso io dico, va bene tutto, va bene parlare di cose storiche, di rievocazioni storiche, quello che ti pare. Ma ti pare possibile che il blog di Grillo si debba occupare di come è morto Mussolini? No, facendo, come dire, anche una, per carità, accettabile rivisitazione storica, revisione storica, ma lasciamo agli storici queste cose, perché se ne deve occupare il signor Grillo? Infatti mi ha fatto sorridere e in seconda battuta invece anche incazzare. Adesso troveremo anche una ricostruzione su chi ha ucciso Cesare, forse Giulio Cesare. Ma dai, ma che, poi ti meravigli che Grillo crolla nei voti, scusa, ma dai, ma si occupa dell'omicidio Matteotti? Allora, il governo forse aveva pensato a una cosa intelligente, cioè quella di mettere il canone Rai in bolletta questa mattina, l'annuncio. Sì, questo non è sbagliato. Sì, poi però il governo, cioè il sottosegretario, poi però improvvisamente la marcia indietro. Cioè oggi il governo ha detto non si può fare, forse tra un anno. Cioè in questo paese non si riesce a fare una mazza. Cioè per far passare qualche cosa dal punto di vista tecnico, burocratico, ci vuole uno, due, tre anni. È irriformabile, io lo dico da tempo. Una cosa semplice è far pagare il canone Rai in bolletta. Giusto o no che sia, io non lo vorrei pagare, purtroppo lo pago, perché altrimenti mi rovinano, mi fanno un culo così quelli di Equitalia. No, sai, ci può essere anche lo sciopero sul canone Rai, cosa che io farei volentieri, però pago, se no poi mi rompono i coglioni, non paghi il canone Rai, eccetera. Una cosa semplice, mettere il canone Rai in bolletta non si può fare in Italia. Tutto complesso, complicato, tempi tecnici, ma vaffanculo, va. Allora, ho letto oggi su Dagospia questa notizia, caro Parenzo. Finita l'epoca delle smutandate, a Palazzo Grazioli c'è un insolito trans-trans. A Palazzo Grazioli c'è un insolito trans-trans. Questo leggo, Dopo Vladimir Luxuria, a casa del Banana, cioè ad Arcore, cioè anzi no, a Palazzo Grazioli, si intravede anche Mara Cepelero, transessuale romana divenuta amica della progressista Francesca Pascale. I ben informati parlano di un coinvolgimento imminente di Mara Cepelero nell'area pari opportunità di quel che resta di Farsa Italia. Sarà vero? Allora, ho il piacere di conoscere da diverso tempo la diretta interessata, Mara Cepelero, che saluto. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Come stai, cara? Come stai? Buoni e cattivi. Hai una voce meravigliosa. La signora Cepelero. La conosci? La signora Mara Cepelero, e innanzitutto vogliamo dire sì, che... Sicuramente Parenzo conosce le tre leggi di Cepelero. Io a quelle pensavo, infatti. Infatti pensavo, bravo, a Giovanni Cepelero, io. Bravo, bravo. Ma essendo morto nel 600 e rotti, bravo, mi sembrava strano che tra i tanti poteri del signor Cruciani ci fosse quello di rievocare Giovanni Cepelero. Allora, il nome... Lei non ha un cazzo a che vedere con l'astronomo matematico? No, matematico, nulla. Fisico, nulla, nulla. No, ma il nome è vero, però, Mara? Ho diretto altre orbite. Ma il nome è vero? Cepelero o un nome d'arte? No, uno pseudonimo. Un nome d'arte. Allora, cioè, Mara Cepelero, ex modella, presentatrice televisiva in varie televisioni locali. La conosco benissimo. Eccetera, eccetera. Grande frequentatrice delle notti romane, possiamo dire notti certo. Serate o non solo notti. Certo. Diciamo subito una cosa: non ama essere chiamata transessuale. Questo signore che ha fatto questo articolo, io pensavo che tu mi chiamavi oggi addirittura per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che è un argomento forse molto più importante. Vabbè, quello sai, noi ce ne fottiamo. Io della violenza sulle donne non me ne fotto, perché sono cose gravissime, sono cose molto gravi. Vabbè, la violenza sulle donne. Questo, però io volevo dire, tu questo articolo che ha fatto questo signore che si chiama Dandolo, sì, aperto la mia pagina ufficiale di Facebook. Che c'erano delle foto tue con la signora Pascale. Sì, vabbè, ma Francesca è una mia amica da tantissimi anni. Vogliamo dirlo, sì, diciamo. Da tempo, quando era consigliere provinciale in Campania, già da quando si batteva da tempo per le lotte civili. Cioè, tu frequenti Palazzo Grazioli? Cioè, la frequenti? Ma no, ma io frequento, come frequento Palazzo Grazioli, frequento anche la città del Vaticano. Qual è il problema? Come la città del Vaticano, scusa? Questo è un buon problema, francamente. Ma in che senso la città del Vaticano? Nel senso, come posso andare nel medesimo modo come vado a Palazzo Grazioli, posso andare pure nella seconda, terza loggia Vaticana, che sono i piani del Palazzo Apostolico. No, però scusami, Mara, precisiamo subito questa cosa. Allora, innanzitutto, signora Mara Cepelero, non conoscono questo Dandolo. Vabbè, ma chi se ne frega? Con adesso prendilo, sicuramente prendilo, come pseudonimo, dici. Non dandolo, prendilo. Intanto io lo querelo, questo lui è brutto, non è venuto a lei sotto le mie lenzuola, non conosce niente della mia identità sessuale, e poi io sono stufa di questi modi così brutti. Vabbè, ma dire transessuale mica è un'offesa, scusa. Sì, quando parlo di Cruciani non dico Cruciani giornalista uomo, oppure dico, che ne so, eterosessuale, cioè che cosa significa l'appellativo della sessualità sulla persona? La, per- persona è persona in quanto tale. Vabbè, d'accordo, però voglio dire, io ti devo fare la domanda. Ti devo fare la domanda. Tu sei, transessuale o no? Questa te la devo fare come domanda. Io sono tutto il contrario di tutto. Beh, questo è buono, questo è molto buono. Tutto è il contrario di tutto. Sono molto pirandelliana, sono uno, nessuno e 100.000. O meglio ancora, se ami la drammaturgia pirandelliana, ti dico che sai come sono? Come è sei? Così se vi pare. Come il personaggio di Così se vi così pare. Così è, potrà essere la figlia di lei, la moglie di lui. Cioè, voglio dire, a voile e a vapeur, come piace si dice. Tu, come piace a te, come piace a te. Beh, sì, adesso come piace a me, non esageriamo. È interessante. No, no, no, no, no. Io non sono bisex. Io non sono bisex. No, nel senso del linguaggio francese. Ancora francese. Non lo sono, però, Ancora no. Non lo sono. Ma tutti possiamo diventare tutto il contrario. La signora Mara Keplero, bisogna dire che non vuole dire di essere transessuale. Vabbè, va, ognuno. Io, giustamente, io no, ma lei. Questo signore lo querelo perché io non lo conosco. Ma non lo querelare, no, ma non. Dandola. Ma che ti frega no, di Dandola, questo signore se non può permettersi di fare, se vuole fare dare notizia. Vabbè, ha detto che sei transessuale, non è che ha detto che sei la figlia di no, ma non c'entra, deve finire questa crociata contro l'identità. Ma questo non è, non fa la crociata, si chiama Dandola, ha detto anche la Dandola, è gay. Ma che me ne importa a me di quello che è lui può essere tutto, non mi interessa. Ma non è un articolo omofobico, ha detto che frequenti la Pascale. Vabbè, comunque, non è mica un reato frequentare, un orgoglio frequentare una ragazza intelligente. Oh, ecco, benissimo. Una donna che io parlo sempre di un libro scritto da Mara Parmigiana che si chiama Le donne storie di Lett. Se fosse stato scritto tempo fa, la Pascale sarebbe rientrata in quelle donne che attraverso, diciamo, l'amore, il letto, come la Pompadour, come la Contessa, addirittura hanno cambiato gli eventi storici. Certo, Francesca è un'eroina storica. Cioè, e secondo te cambierà gli eventi storici la Pascale? E certo, se un uomo importante come Berlusconi, che prima aveva un atteggiamento, diciamo, non voglio essere un po' violento nei confronti dei no, dillo pure tranquillamente. Aveva? E poi ha cambiato. C'è un atteggiamento, diciamo, omofobo, diciamo, un po' contro i gay. No, ma io credo che Berlusconi poi macista. Un uomo che ha creato la televisione, che è un artista nell'animo. No, però faceva le battute, le barzellette sui gay. Sì, ma perché lui è uno che scherza, uno che si diverte. Però se una dice che una che è riuscita a trasformare Berlusconi in uno pro gay, è un genio. È una grande donna. Io vado a trovare l'amica. Io non sono andato a trovare Berlusconi, io sono andato a trovare, se vado a trovare. Ma Berlusconi c'era quando vai ad Arcore? C'era, era bellissimo, dimagrito, con Francesca vicina che la ama tantissimo, sono una coppia stupenda. Ma che ti ha detto Berlusconi a te? No, Berlusconi aveva da fare, aveva le sue cose. Ma te come ti chiama? Come ti chiama? Mara, come ti chiama? Come mi chiama? Ulisse, come mi deve chiamare? E che ne so, ti conosce? Vi conoscete? Francesca gli avrà parlato, certo che mi conosce. Ti saluta, gli ricordi qualcuno? Gli ricordi qualcuno o no? Un po', forse Moana, come le foto. Moana, ragazzi, Berlusconi ricorda, dice a Mara Keplero, frequentatrice di Francesca Pascale, amicissima di Francesca Pascale. Comunque Francesca è bellissima, per cui dici, è bellissima. Ma senti, qualcuno, Sgarbi dice che è bisex, signora Pascale. Ma guarda, Vittorio è un provocatore, Francesca è una ragazza, io ho letto attentamente, ho pure sentito Vittorio, Vittorio non ma non ha c'è niente di male, non c'è no, niente no, di male. Lui, Vittorio non ha detto, non ha fatto ha detto che ogni tanto Vittorio gli piace, le piace. Bisogna leggere bene tra le righe quando si fanno le affermazioni. Vittorio ha detto, le nuove generazioni sono libere, ha detto una cosa esatta e vera, perché sono libere, non hanno fatto di essere appunto, libero, vuol dire che allora ha ragione Vittorio quando a dire quelle cose, ha ragione. No, non vuol dire che ha avuto esperienza, vuol dire che ha una libertà rispetto al giudizio, al di pensiero. Senti, che ne pensi di Gasp, tu che sei frequentatrice di... Come l'hai conosciuta la Pascale, tu, scusami? E io la conosco dai tempi di quando lei era consigliere provinciale, io poi ho lavorato per una televisione... Ma è vero che entrerai a Forza Italia? No, questo è perciò dico che a volte quando si danno le notizie... Ma è vero o no? No, non è vero fatto, anche perché io non mi sono iscritta a nessun partito. Però sei vicino a Forza Italia, cioè... No, sono vicino a tutti i movimenti, a tutti i movimenti politici, che sono vicine ai cittadini nelle forme che si richiedono. Vabbè, adesso non fare una cosa, che vuol dire niente questo, non fare la diplomatica. No, io sono nata, la verità, sono nata socialista, per cui mi risento un po'. Beh, allora sì, allora un po'. Craxiana, ti piaceva Bettino? Eh beh, certo, cioè Keplero sì, è nota craxiana. Sì, Bettino era il numero uno, diciamo la verità, o no? Sì, certo, i socialisti di una volta erano, anche se molti di Forza Italia sono ex socialisti, sono appuiti appunto in Forza Italia, ex socialisti. Senti, però ma era un altro socialismo. Ma alla fine dentro Forza Italia sui gay vincerà Gasparri o la Pascale secondo te? La Pascale, perché, la Pascale. Guarda, perché Francesca è una vera paladina della... Ma potrebbe ragazza, candidarsi, guarda, perché non si candida direttamente lei? Ma ragazzi, voi vi rendete conto, questa ragazza è una ragazza semplice, sì. è partita da, sì. sempre dalla politica, ma vi rendete conto, fa sempre un passo indietro, potrebbe fare tante cose, sta sempre indietro, è una ragazza discreta, ma è un, cioè io questo atteggiamento che si ha nei confronti poi dell'amore, che poi l'amore non ha sesso, non ha età, pure questo fatto che uno mi ha scritto sulla mia pagina ufficiale, la babysitter, eccetera, cioè non si rendono conto, adesso tu mi poni il problema della sessualità rispetto ai ruoli e io sono, come diceva Vittorio, nel sesso non esistono i ruoli. Ma tu che sei? Chi ti piacciono, gli uomini o le donne? Mara? A me può piacermi tu, per esempio tu mi piaci molto, non sei il tipo mio, tu sai che a me piacciono i bellissimi, lo sai benissimo. E io ti piaccio. Tu hai una testa molto erotica. E Parenzo ti piace o no? E Parenzo? Parenzo, guarda, io e Parenzo ci siamo incontrati una volta, lui non se lo ricordare a me, a Locarno. Dimmi la verità, aspetta un attimo. Dopo a Locarno, la, è vero. Dopo è vero. La pubblicità, dopo la pubblicità. Mara Keplero, frequentatrice di Francesca Pascale, amica di Francesca Pascale, e insomma, amica stretta da quello che leggo, da quello che si sente, da quello che si sa. Pubblicità, a voi! Ma la fangura, la croce, mi aveva visto cazzo di affarotto. Diventato subito un mito, caro Parenzo, questo ascoltatore da Campobasso, come puoi immaginare. Noto liberale. Allora, noi abbiamo qui oggi un personaggio che è venuto spesso alla Zanzara, che è il presidente dei giuristi per la vita, perché voglio che dica la sua, so che è molto... Parenzo, io ospito questa persona perché, no, se... per carità, perché è uno che dice... Ma non posso neanche mugolare. Sì, puoi fare... non si nasconde dietro un dito. Gianfranco Amato, buonasera, signor Amato. Buonasera, ciao caro Cruciani. Allora, stasera sono talmente contento che saluto anche Parenzo. Anche Parenzo. Buonasera, allora, Parenzo. Gianfranco Amato. Buonasera, Amato, da me molto poco. Allora, è incazzato come una bestia per la vicenda Barilla. Come si chiama? Gasparri vuole addirittura iniziare un boicottaggio di nuovo contro Barilla. Amato, ha ragione Gasparri o no? Ma povero Barilla, a me fa pena. Ti fa pena addirittura, perché? Un poveraccio, abbi pazienza Cruciani, uno che è disposto a vendere la propria dignità per un piatto di pasta, come lo definisci? Cioè, questo, tu ti saresti mai sottoposto allo Zindao? Allo? Zindao in cinese è il termine con cui l'autodenuncia pubblica, l'autocritica, quella che si fa nei campi del Daugai, no? Io quando ho visto quel video sono rimasto veramente... E adesso è stato premiato addirittura come no, società modello per i gay friendly, premi a GoGo e tutto questo, ha recuperato quote di mercato, così sembra, forse no. Io sapevo, guarda, che finiva così, io l'avevo già saputo. Cioè tu come lo giudichi? Un debole, come lo giudichi? Sì, un debole, ed è uno dei motivi per cui l'industria italiana è in crisi, figurati. Ma dai. Ma eccolo qua, è arrivato. Cioè tu dici perché non ha avuto le palle. Più gli industriali di una volta. Cioè quelli con le palle, dici tu. Bravo, capitano industria con le palle. Qui c'è gente, ci sono debosciati che si fanno intimidire da questa dittatura del pensiero unico. Allora, debosciati che si fanno intimidire dalla dittatura del pensiero unico, che sarebbero quella delle lobby gay, tu stai dicendo, no? Beh, scusami, guarda che finiva così. Io l'ho saputo un anno fa. Non dopo che avete fatto quel provvidenziale programma dove l'avete fatto fuori, ma... Beh, non l'abbiamo fatto fuori, adesso esageriamo. No, è vero, avete fatto un servizio sociale. Eh beh, abbiamo fatto... dimostrato che esiste la lobby gay e la gay-stapo. Sì. Allora, la gay-stapo, stupendo, sì, la gay-stapo. Allora, quando lui, dopo questa cosa, ha fatto tre cose. Sì. Ha assunto David Mixner, che è il guru dell'omosessualismo mondiale, come consulente. Sì. Uno, ha introdotto in azienda il Diversity and Inclusion Board, cioè il comitato per la diversità e l'inclusione, composto da esperti internazionali di diritti LGBT, per modificare in senso gay friendly la politica esterna. Secondo, ha introdotto il Chief Diversity Officer, un dirigente. Cioè tu dici ha pagato. Per modificare la politica interna. Tu dici che ha pagato. Terzo, si è sottoposto al Corporate Equality Index. Vabbè, però adesso non andiamo. Un sistema di monitoraggio internazionale, per far spiegare a tutti, che monitora mese per mese lo stato di avanzamento della politica gay friendly. È giusto. giustissimo. Dovrebbe esserci in tutte le aziende contro le discriminazioni. E mi meraviglio che un signore che si chiama Presidente Giuristi per la Vita non tuteli la vita in tutte le sue manifestazioni e forme, che è quella di dire le simpatiche fregnacce che sostiene lei e difendere i diritti degli omosessuali e dei diversi. Adesso, perché se no sono stato zitto, 20.04 cominciano a girarmi come si dice, le ronde celesti a me. Sei pagato per fare la voce politica di corretta. Ma quale politica? Dico quello che penso e basta. Tutti sanno che in realtà sei un liberale o un libertario. E che appunto non credi, per questo. E non ci credi alle stronzate. Vabbè, che dici. Io voglio capire una cosa. Appunto secondo per te, questo, caro Amato. Secondo te, Amato. Amato, Amato è il vero difensore della famiglia tradizionale. Cioè, il vero, quello che qualcuno potrebbe definire il vero omofobo, è quello che lo dice proprio in maniera aperta, in maniera chiara, in maniera senza fronzoli. Per questo mi piace, signor Amato. Sì, allora, io voglio dire ad Amato una cosa. Dunque, lui dice: io sono omofobo. Sono omofobo. A te piace un mondo così? No. A me fa cagare un mondo così. No, ma io a me non è che fa cagare. A me non piace. Ci vuole la frasettina del signor Adinolfi. Io voglio dire ad Amato questa cosa qua. Amato, allora, secondo te Barilla si è fatto mettere sotto dalle lobby gay? Si è fatto sottomettere? Ma uno, tra l'altro, ha pagato, cioè con i soldi si è comprato al favore delle lobby gay, secondo te? Lui si è venduto la propria dignità per un piazzo di pasta. Vabbè, tu la mangi la pasta o no? Non ho capito. Io la mangio. Barilla no, è da un anno che ho boicottato. Vabbè, esagerazione. Oh, su. Quando l'hanno fatto i gay, tutto bene, tutto lecito, tutto possibile. No. Adesso bisogna, ha ragione Gasparri. Sarà una provocazione, sarà quello che vuoi. Cioè bisogna iniziare a boicottare Barilla, bisogna iniziare a boicottare. Vediamo se sono di più in Italia i gay o gli eterosessuali incazzati, perché c'è anche questo. Cioè tu dici tutti gli eterosessuali incazzati dovrebbero non comprare la pasta? Assolutamente sì. Ma dai, su, ma adesso non si può rovinare. Tu vuoi rovinare un'azienda italiana, tu la vuoi rovinare, certo. Amato, tu la vuoi rovinare. Però quando lo diceva l'arcigay, tutti lì proni, anche voi, a dire bravo. No, noi no, noi no, io non ho mai detto una cosa, cioè, ho detto che secondo me uno, se dice una cosa, deve tenere il punto, deve tenere il punto. Vabbè, un poveraccio non è proprio una provocazione, gli stai dicendo che è un poveraccio, un povero Guido Barilla. Eh beh, ho capito, un poveraccio. Io sarei morto di fame, ma cioè? Piuttosto di vendere la mia dignità in quella maniera. Cioè, ti saresti ma hai visto quel video? Vabbè, quello è un anno fa, risale. Adesso questi questo è il frutto di un anno, l'hanno rieducato, è durato un anno. Si è sottoposto alla rieducazione, adesso è diventato gay friendly, pazzesco. Anzi, Barilla SPA ha ottenuto, giustamente l'ha chiesto, il prestigioso marchio di aziende internazionali gay friendly. Pazzesco. Senti, aspetta, fermo, Amato, qui con noi c'è una persona che è molto vicina al movimento gay, che è inorridita, penso, di fronte a queste parole. La signora Keplero, la signora Mara Keplero, frequentatrice di Palazzo Grazioli, amica di Francesco. Perché che c'è? Non è mica un titolo, io sono. Vabbè, dimmi, Mara, scusa, che vuoi dire a questo signore che è presidente dei Giuristi per la Vita? Ma io credo che, come diceva qualcuno, che solo gli ignoranti nella vita non cambiano idea. L'ha cambiata Berlusconi, l'ha cambiato Barilla. Cioè, io non vedo. Se uno fa marketing e fa commercio della sua azienda. Cioè, si è reso conto, dici, di una gaffa e cercava di riparare. Ma poi se il mondo è evoluto, se c'è questa diversità. Che dove ci giriamo, ci sono diversità. Ma è evoluto il mondo, ma perché tu allora non vuoi dire che sei transessuale? Io questo non lo capisco, francamente. Ma io che cosa ti devo? Ma perché? Che cosa hai in mezzo alle gambe? Adesso per curiosità, è una mia curiosità. Ma è una tua curiosità. È una mia curiosità, io perché sì, sono pazzo di te, sono pazzo di te, Mara, sono pazzo di te. Allora dillo. Sono pazzo di te, sì. E allora quando avremo un rapporto ravvicinato. Beh, qui siamo veramente al top. E con Gianfranco Amato mi fa. No, parte, fondo, sai che però ti scusami, sai cosa ti dico? Dimmi. Che come diceva Fedro, dimmi. Il est in intelletto quod prius non puerit in senso, cioè? Non è stato nella mente se prima non è passato attraverso i sensi. Cioè questa forma così violenta che ha la gente nei confronti delle diversità, e poi diversità è anche il termine diversità, sì. È brutto da dire. Uno è quello che è. Però io scusa, se devo uscire con te, cara Mara, almeno per un incontro così, devo sapere che cosa trovo. Perché cioè, devi sapere? Che cosa trovo lo devo sapere, se trovo. Amico mio, un minimo di cosa lo devo sapere. Ma sei così libero alla radio, su! Ma cosa trovo? Una persona operata o no? Operata o no? Ti dico solo una frase: dimmi. Tutti transitiamo su questa terra. Tutti transitiamo su questa terra. Transit gloria. Che vuol dire, mundi. Parenzo? Traduci questa cosa. Traduci contattino transit. Scusi, transit, signora Amato, transit, ma lei andrebbe mai dire... con un transessuale, signora Amato? Sì, Amato. Ma che tecnico dice che non ci sia già stato? Ah, ma sì, quello è possibile. Quello neanch'io sì. Ci andrei. Scusi, mai. Scusi, Amato, lei andrebbe mai con un transessuale, signora Amato? Mai e poi mai. E come li consideri i transessuali? Degli aborti? OGM. Cioè genneticamente no. Modificati? No, geneticamente modificati. Cioè proprio delle... Ma come si fa a paragonare? Degli scherzi della natura. Vabbè, ma questo signore non sta bene comunque. Degli scherzi natura, della natura, no. Degli scherzi della natura. Ma poi sai quella è la cosa bella, Giuseppe, che dimmi. Queste persone qui che si fanno paladine di queste battaglie, poi il bello che io li vedo, vanno in chiesa, questo signore sicuramente sarà un cattolico, si dovrebbero vergognare, devono prendere esempio dall'affermazione che ha fatto Papa Francesco quando ha detto chi sono io, da lì parte l'ortodossia della chiesa. Ma non lo possono vedere chi infatti Papa Francesco. Chi sono io per giudicare? Cioè ragazzi... Però scusami Amato, io volevo capire che cosa sono per te i transessuali, cioè delle persone fuori contro natura? Sì, beh sì, sicuro. Amato. Allora, ma abbi pazienza. Scusa, dimmi. No, ma dillo, di come quello che pensi, senza fronzoli. Ma io sono uno che non ha preso la lingua, questo si sa. Io non giudico le persone, io non voglio fare. Vabbè, d'accordo, però cosa sono per te i transessuali? Siamo sempre nell'ambito generico. No, non il transessuale singolo, per carità, io non conosco questa persona. No, ci mancherebbe. Poi, cosa sono? Mi fate. Ma a livello generale, come gli omosessuali sono persone contro natura, l'omosessualità è una depravazione morale. Questo vabbè, d'accordo, i transessuali allora. I transessuali sono una condizione non naturale, abbi pazienza. Sono innaturali, sono contro natura. Ma certamente, questo è un problema. Ora, ma è la natura, è l'uomo, è fatto in maniera diversa, caro Amato. Non ci sono solo uomini e donne, ci sono i transessuali, ci sono persone che hanno corpi da donna e atteggiamenti maschili, eccetera, eccetera. È la natura, bisogna accettarla così com'è. Cioè io la letteratura di certi anni ci è maestra. Basta ricordare Leopardi quando diceva: o natura, o natura, perché non rendi quel che prometti allora? Perché inganni così tanto questo se ci infiliamo in questa deriva non ne usciamo più, perché guardate Mara, ma c'era aspetta Amato, Mara, voglio capire se c'era non chiamarlo Amato che crei un equivoco. No, scusa Mara, volevo sapere se c'era il cane lì con voi, con quando incontri di solito la sì c'è il cane, perché l'ho visto nelle foto. Sì, no, c'è il cane che guarda, è veramente il Dudu, sì. Signor Dudu, sì, è proprio il pater familias, proprio cioè è il senso? Capo della, è lui che comanda, è un cane di cioè sono tutti a disposizione di Dudu. No, è veramente divertentissimo. Poi Francesca è veramente affezionata a questo cane, tutti vabbè lo adorano. Ragazzi, vi saluto tutti. Ciao Mara, ciao. Sì, ciao Amato. Ciao. E oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Adesso ti dico quello che ha detto, il premier turco. Pubblicità. Poi me lo dici, basta. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Siamo nel caculo, Luciani, sono nel caculo. Allora, Mario, provincia di Cremona, vai. Buonasera, tu sai che Dimmi. Dunque, io non so, io guardo la TV, mi viene sulla pelle d'oca, prima cosa quando vedo Salvini. Perché? Addirittura, sì, perché? Sì, ma perché è ignorante. È una persona volgare, è una persona che non ha intelligenza, non rispetta nessuno, è stato 20 anni al governo e accusa tutti gli altri di aver fatto cazzate. Ma soltanto la Lega ha fatto cazzate. E poi in Emilia Romagna grande vittoria. Beh, ma questo non c'è dubbio, amico mio. Ma ti hanno votato 4 gatti, Cruciani. Vabbè, ma non c'entra niente, con questa storia qui. In democrazia conta solo chi va a votare. In America vota a meno del 50% spessissimo in molte occasioni e nessuno si lamenta. La democrazia è fatta così. C'è chi non va a votare o accetta lo status quo oppure deve accettarlo per forza. Non è necessariamente la protesta. Cioè, non è che è assurdo quelli che vogliono attribuire a chi non va a votare la protesta nei confronti di chi ha il governo. Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Non è così. Ma infatti Salvini sta dicendo no. Renzi deve stare attento, se fossi lui darei subito le dimissioni. Vabbè, ma quello che c'entra, scusi. Allora è proprio veramente è ignorante quella persona lì. 20 anni di governo, accusa ancora gli altri. Beh, questa però, per carità, è vero che la Lega è stata al governo ed è sicuramente responsabile di molte cose che sono successe negli anni scorsi. No, però, ma ho capito, ma questa è anche la grande abilità di un leader politico, che è quello di far dimenticare il passato. La grande abilità, sicuramente, in tutti le TV è un disco rotto. Guardi, che Salvini è in televisione da tanti anni, solo che prima non se lo filava nessuno, e adesso se lo filano tutti. L'ho conosciuto quando aveva 20 anni, con uno di Bergamo, non posso qua a far nomi. Era ignorante allora, ignorante anche adesso. Va bene, grazie. Donato Varese. Salve, io voglio dire una cosa. Dimmi. Cruciani ha detto prima che il canone è stato prorogato per... No, hanno detto prima che il canone da gennaio sarebbe stato pagato all'interno delle bollette, forse con un anche abbassato rispetto ai 100 e passa euro che costa adesso, forse 70. Poi il governo successivamente ha specificato che non si riesce per motivi tecnici a fare questo provvedimento. È slitta tutto. Questa è l'Italia, questa è la sostanza. Comunque la cosa è certa, è che la RAI non è mai stato una cosa pubblica. La RAI è stata dei partiti, non è stata una cosa pubblica, dei partiti. È un ammasso di porci, Beh, adesso questo mi pare un po' ammasso di porci adesso. Mi pare che lei si è fatto prendere un po' la mano, si è fatto prendere l'è slittata la frizione, come dire, no? È un enorme accozzaglio di nulla facenti, le caculisti, schiavi, soccrono indichiati. Diciamo, io non capisco un certo, ma voi vi rendete conto cosa è la RAI? Ma questo è il mitologico Donato Davarese che chiamò una volta oppure un altro? Sì. Sei tu, Donato? Sei tu o no? Certo, sì, un certo Franco Di Mare. Ma che c'è? Gerardo Greco. Ma perché? Ma lei è uno psicopatico, Tuilio Gianmarino. Ma lei è psicopatico? Mi rendete conto? Fammi sentire questo. Questi tre cornuti, mi devo dire. È pazzo, con quali modalità sono entrati in RAI? Concorso hanno fatto. Alcuni hanno fatto il concorso. Ma questo è pazzo. Un concorso esordo hanno fatto. Ma hanno fatto una minchia. È una cozzaia, un cesso enorme, pieno di raccomandati. La RAI, allora, io pago il canone se la RAI mette le telecamere al contrario. Fa vedere che cazzo c'è dietro. Voglio, ma lei è pazzo. No, però questo qua, adesso scusa, Donato, al di là dei nomi, delle cose. Però scusa, David, cioè non ha tutti i torti. Ma non ha tutti i torti. La RAI, ma questo è matto. Ma ho capito, ma che vuol dire? Ma è Donato. Voglio una RAI con le telecamere. Domato, non aspetta, Donato. Aspetta, fallo parlare che sto Donato. Dimmi, Donato, vuoi una Voglio una RAI con la telecamera al contrario. Voglio vedere dietro la Clerici. Chi cazzo c'è? Altro che quel porco arabo che gli dà 5.000 euro a puntata. Ma dove cazzo siamo arrivati? Questa ma in un camping trovo un arabo di merda che non sa nemmeno parlare. Vieni, cazzo bello, ti porto la trasmissione, ti faccio dare 5.000 euro a puntata. Ma tu mi rendi, io devo pagare il canone e qualora lo dovessi pagare mi stacco la corrente. Ma qui dove sia? Ma Putin, ma nemmeno il vecchio comunismo bolscevico faceva queste cose. Ma perché non ci ribelliamo? Qua stiamo impazzendo. Un povero disgraziato che non può pagare il canone, ti stacco la cosa più vitale che ha, la corrente. Sti porci, per dar da mangiare a chi? Per dar da mangiare a chi? Alla Clerici, alla Venier. Ma sta gentaglia di merda piena di soldi. Ma come gente? Ma cosa dici? Però scusami, adesso al di là delle cose, Donato, fermo un attimo. Però se tu ci ragioni bene, no? Dice uno. Ma non posso ragionare con un matto così, dai. Ma stai calmo, che è un tuo ascoltatore questo qua. Allora, signor, ho capito, ma non è che tutti pazzi. Comunque. Fermo. Traffico, torniamo subito, fermo. Calma, situazione, devo tornare tranquilla per un secondo. E poi di nuovo Donato, dai. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh? Allora ragazzi, a parte il fatto che in Italia non si riesce a fare una mazza e dunque il canone della RAI che doveva essere in bolletta non sarà in bolletta e forse se ne parlerà l'anno prossimo, altra buffonata all'italiana. Però Donato Davarese dice: perché mai il canone in bolletta? Perché mai dobbiamo pagare? Magari uno gli viene staccata la luce perché non paga il canone per che cosa, Donato? Per pagare chi? Per capire che cazzo, ma ti rendi conto? Questi qua sono usciti prima con Rai 1 nel 54, benissimo, Rai 1 una cosa nobile, poi porca è diventata Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai Move, Rai Store, Rai Scuola, Rai Yo-Yo, Rai Gide Muota, Rai Gide Stramuota, Rai Premium. Ma tu Rai Group, ma prima di fare queste cose, lo devi, se è pubblico lo devi chiedere pure a me. Allora facciamo tutte queste cazzate. cazzate, mettiamo dentro tutti i raccomandati, facciamo lo sperma spettacolo, inculiamo da destra, inculiamo a sinistra, perché tutto, è tutto sesso. Sesso, sesso, sesso. Sesso, sesso, sesso. Ma adesso che c'entra il sesso? Non ho capito. Sì, voglio sapere, tutti quei porci che stanno in Rai, una struttura pubblica, a me devono spiegare come hanno fatto a finire lì. Voglio sapere pure quell'altra stronza, come si chiama, della Paragno, Peregno. Chi? Perego, Perego. Dai, ma è morto, quella stronza che è più o meno morta della mia cugina che è morta 20 anni fa. Scusami, adesso non... No, io c'ho gli ospedali a Varese, scusami. Varese. Si chiama Lucio Presta, comanda. Ma quella è la gente che c'è. Ospedali Varese, ospedali. Lucio Presta, comanda. Come fa sto figlio di puttana? No, no, no. Ospedali Varese, te l'ho detto, è pazzo, dai. Ospedali Varese. Stai esagerando. Allora, aspetta un attimo. No, io chiamo l'ospedale, guarda, Filippo del Ponte Varese. Che è l'ospedale? Chiamo l'ospedale un attimo. Chiamo l'ospedale, no, però è una cosa importante. Dai, basta, è impazzito. In via Lazio a Varese, l'ospedale. Aspetta un attimo, perché. Che cazzo è sta per? Ora lo chiamo. Ha detto due volte. No, no, ora chiamo l'ospedale, azienda ospedaliera, guarda. Circolo, fondazione. Però scusami, Donato, tu lo paghi il canone, Donato? Io il canone, purtroppo. Prenotazioni. Pago perché sono costretto a farlo. Dove sta lei a Varese intanto? Va, mi dica la zona. Allora, va. Io il caro, qualora io dovessi diventare corno, non potessero pagare perché mi stacco la corrente, io qua ammazzo qualcuno. La RAI deve essere espoliata da tutta quella merda infetta e infinita che c'è una struttura pubblica. La RAI ha un potere incommensurabile e deve dare importanza. Abbiamo capito. 0, 3, va bene, Donato, ti abbraccio. No, lascialo lì un attimo. Aspetta, che lo chiamo, sta 2, chiamando 9, un ospedale. 9, che devi fare? 111. Ma chiamalo, in diretta. Ma l'ambulanza non ce l'abbiamo più, l'ambulanza. No, adesso è qui, ospedale Filippo. Aspetta, eh? Ecco, sta arrivando. Ecco qua l'ospedale. Dai, e parla con questo ospedale. Sto chiamato, lo senti? Sì, lo senti, stai sentendo. Donato, ci sei? Sì, salve, scusi, abbiamo un caso sul Varese. Aspetta un attimo, che verifico. Pronto? Sì, buonasera. Sì. No, scusi, volevo capire questo. Siccome c'è un signore, Donato di Varese, che evidentemente non sta molto bene, delira sulla RAI il canone, potete venire a prenderlo per cortesia? Dove sta Donato, scusi, di zona? Dove sei? Che c'è uno nell'ospedale. Che c'è l'ospedale in linea, fermati. Dove ci vuole un'ambulanza? Che è? Dici subito. Che ci vuole un'ambulanza. Per cortesia. Voglio far cadere una bomba sulla RAI. Appunto, per questo, appunto. È urgente, amici dell'ospedale di Varese. Una bomba invisibile, una bomba. Fammi parlare con l'operatore. Ma è chiuso perché. Ha chiuso, beh, giustamente ha chiuso. Vabbè, Donato, adesso in qualche modo provvediamo fuori dall'onda, sì. Provvediamo. Sì. Ciao. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping your whole everything. Che tempi. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Parenzo, abbiamo tra noi un mito, una leggenda. Io ve lo presento solo con questi piccoli stralci audio, con questi piccoli pezzettini audio. Ha fatto parte, se vuoi, della nostra crescita, Parenzo. Non so se tu ti svegliavi, se eri sveglio, forse eri troppo piccolo, però, perché io ho una decina di anni più di te, non sembra, perché insomma sei quello che 49. Sei. Io ne ho 48, per cui all'epoca, diciamo 30 anni fa, ero avevo 18, tu eri troppo piccolo. Avrai visto dopo le meravigliose immagini di quelli della notte, eccetera, eccetera. Come però notte. Sentiamo questi estratti di un personaggio che riconoscerete subito, ma non è che ha fatto solo quello, poi ha fatto tantissime altre cose: cinema, teatro, fiction, anche nulla, anche niente. Non è bello ciò che è bello, ma che bello. E questo, diciamo, è il top, questo è il top. Poi c'erano i famosi nanetti. Ma sentiamo qualcosa in più, cioè che abbiamo in più? Un nanetto piccolissimo. Era il 007 marzo 1555, mille in più, mille in meno. È uguale. E adesso io credo che uno che ma poi viene sempre sì, è? Beh, è Nino Frassica, ovviamente. Ciao Nino, come stai? Complimenti per il programma. Beh, no. Ti seguo sempre. Ciao. Alla ti chiamo dopo la radio. Alla sera. Come dalla mattina alla sera, scusa. Io mi preparo in modo che quando arrivate già sono bello pronto. Sei già bello caldo, diciamo, no? Senti, caro Nino, ma... grande Nino che ho visto l'altro giorno a Mediaset, infatti lì ci siamo incontrati. È vero. Con è il vero. Signor Artù, che è il suo portaborsi. È grandissimo. Allora, io ti voglio dire una cosa, Nino, hai scritto questo libro, la mia autobiografia, 70% vero, 80% falsa, tu giochi molto spesso sul paradosso, eccetera, ma uno, perché dovrebbe pubblicare un'autobiografia? Così, tanto per... Questo lo dovete chiedere alla Mondadori, perché l'ho pubblicato. Neanche tu lo sai, giustamente. In realtà, li ho fregati, cioè? Perché loro volevano un'autobiografia vera. Io l'ho tentato di scriverla e mi annoiavo, perché era piena di date, curriculum, cose. Ho detto, ma questa cosa... Due palle. Ho detto, ma sembrava un verbale. Allora, ho iniziato invece scrivendo a modo mio, partivo da quando sono nato a quando sono morto, che c'è pure quando sono morto. C'è pure quando sei morto? Sì. Veramente? E quindi mi sono divertito, ho portato le prime pagine e loro ho fatto questa controproposta e l'hanno accettata. Ed è diventato questo. Ma ti rendi conto? No, ma chi l'avrebbe mai detto? Cioè, tu quando sei nato, no? E quando sei cresciuto, avresti scritto un libro sull'autobiografia pubblicata da Mondadori, cioè da Berlusconi. Cioè, detto, questa è una parentesi da Berlusconi, eh. Cioè, ma tu l'avresti mai pensato una cosa del genere? Sempre l'ho pensato, io l'ho pensato sempre quando andavo all'elementare. Quando andavo all'elementare avevi sempre pensato. In realtà ho fatto l'attore soltanto perché poi mi avrebbero chiesto di scrivere un libro. Capito Parenzo, ma sai che ultimamente l'hanno chiesto pure a me, scrivi una cosa sulla tua vita, la radio, le cose, così. Io vedo, voi siete matti. Beh, devi farlo subito. Ma no, perché io poi scrivo, scusami, no Nino, io scriverei purtroppo troppe cose di sesso, poi mi rovino con le mie mani, capito? Perché sono lì, sarei pronto a raccontare tutta la mia vita privata, sessuale, le mie perversioni. Scrivila come l'ho scritta io, cioè, 70% vero, 80% falsa. Scusa, poi come fai a essere 70% vero, 80% falso? Non fa 100. Io sono riuscito. Fa 150, come hai fatto a farlo? Scusa. Basta concentrarsi e saperlo fare. Ma non è possibile scientificamente. Proprio. Però scusa, no, non è possibile. Dimmi solo una cosa, qual è la cosa nella tua vita? Che Frassica è passato da quelli della notte a Don Matteo, ad esempio. Ma no? ha fatto tutto nella vita, anche niente, anche nulla. Ho fatto anche... presentato che il prezzo è giusto. No, quello è, questo non è vero, scusa. Sì. Ma quella è la parte falsa. Io facevo parte dei. Io ho suonato anche con i Pooh. Però siccome. Sì, con i Pooh. Siccome ero timido, mettevo a 200 metri, capito? Sì, beh, certo. E suonavo la chitarra con i Pooh. Ah, beh, sì, mettendoti, diciamo, a distanza. Però, loro non lo sapevano loro. Ah, ecco. Capito, ha fatto parte dei Pooh, ma loro non lo sapevano. Non lo sapevano. Beh, è straordinario. Abbiamo la pubblicità, poi torniamo con Nino Frassica. Però sai qual è il film più bello per me... suo, secondo me? No, lo sai che io i film, in realtà... FFSS, cioè Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo, se non mi vuoi più bene, che è un film che non conosce nessuno. Ma tu l'hai studiato o l'hai visto, Parenzo? Non ho capito. Io l'ho visto perché io sono un amante del cinema e siccome l'ho visto tantissimi No, questo è vero, Nino, lo sai perché? Perché è sicuro che lui non abbia studiato, perché lui normalmente quando viene alla radio non si prepara, niente, zero. No, zero, per non, cui non lo sapevo sicuro... neanche che l'avesse confermato, non lo sapevo è che l'avevi sicuro confermato. Che lui questa cosa qui non l'ha preparata apposta, dunque no, questo film giuro. l'ha visto ma per certo, davvero. È un film con Benigni, tra l'altro, Arbore, Benigni e Frassica. Ma tu sei un grande cinefilo, dunque io lo riconosco, io invece sono totalmente negato e ricordo solo dei frammenti, solo che amo questo personaggio così che ha affrontato la vita sempre con sempre col sorriso, questa è la verità. E tra poco, e quindi non c'è più la pubblicità. No, adesso partiamo con la pubblicità, dai. Buongiorno e benvenuto a Roma. Buongiorno, grazie che mi dici così. Ha fatto buon viaggio? Fondi, questi treni FFSF si viaggia benucci. Le dispiace se le faccio qualche domanda? Prego, facci. Come si chiama? Scannapieco Antonino. Vedo che scrivi, Scripta Amen. Scripta Amen, ferma Holland, e greco. Che ne capisci? Non puoi professione? Capire. Diciamo vario. Titolo di studio? Abbastanza, parecchi. Quanti anni ha? Fai delle domande riserve te, qui a Roma avete questo voler sapere sui pezzoni e sui personaggi. Brava! Allora mi dice quanti anni ha? Avete capito? capito che abbiamo con noi Nino Frassica, che incredibilmente ha pubblicato un'autobiografia, dico io incredibilmente, perché per carità, uno qualche volta pensa alle biografie di Mussolini, di Churchill, e poi c'è anche l'autobiografia del signor Frassica. Tutto ciò è meraviglioso. Ormai, caro Frassica, io glielo dico in maniera quasi da cattivo quale sono, chiunque dopo la tua può pubblicare un'autobiografia, diciamo. Però nessuna autobiografia come la mia avrà un seguito, ci sarà. Se avete la copia, ce l'avete la copia là? Sì, beh, certo. Basta gira sì, ecco, dietro. Sì. Ecco, sì. Da questo libro verranno tratti. Ah, sì, verranno tratti un coso. Un film, poi? No, addirittura. Un disco. Addirittura. Un musical. Un profumo e un liquore. Pure il liquore. Cosa c'è? Ci sarà il liquore Frassica. Autobiografia. Ma no, certo, no, è impossibile. Il liquore può darsi che qualcuno se lo sia inventato. Io voglio capire una cosa, ma Frassica, nella sua vita, che ha votato? Un attore può dire qualche volta: ho votato per quello, ero con Berlusconi, mi piaceva quello, oppure non lo può mai dire. Perché gli attori spesso. Io ho la residenza a Messina e capita che quando si vota io non ci sono mai. Addirittura. Quindi non so da quanto tempo non voto. Cioè, non sei. Quando votai. Sì. Una volta. Avevo tanti. Ancora i calzoni corti. Sì. Radicale, votavo Pannella. Votavi Pannella. Beh, è un grande classico, degli attori libertari. Sì, è un grande classico. Sì. Le canne, la libertà, il sesso libero, queste cose qua, i radicali, il divorzio, l'aborto. Il digiuno, non mi sembri. Mi sembri, anzi, ti ho visto piuttosto ingrassato, Nino, recentemente, no? Adesso sto facendo una dieta, vediamo se. Ma quanto pesi? Ho visto che pesi un bel po', sei un po' ingrassato. L'ho visto sono un po ingrassato. Ho visto che sei ingrassato. Adesso sto facendo una dieta tedesca. Ah, sì, quella di dura, quale? Molto dura, ovviamente. Quale? Alla Fantozzi, che ne so. No, è la dieta, si mangia tutto in ordine alfabetico. Cioè il lunedì tutte cose con la A. E quindi arance, ananas, abbacchio. Non è leggero. Ma dicono che può funzionare, però. Dicono che funzioni o no? No, io l'ho fatta e sono ingrassato. Però. Appunto. E ti credo. Cioè, nel senso che tu devi mangiare tutte le cose che ci sono per la A, per la B. Sì, la B, barbabietola, banane. La famosa dieta tedesca dell'ingrasso, questa qua. La cosa pazzesca. Senti una cosa, ma la Sicilia, tu ci torni ogni tanto in Sicilia o no? Io appena ho fatto un po' di vacanze. E c'è un po' di giorni liberi, vai. Ma il presidente della Sicilia chi è adesso? Lo sai, te lo ricordi? Come no? Come si chiama? Mitico Frocetta, detto anche Crocetta, detto anche da Cospia, detto anche Frocetta. Crocetta. Ti hai votato almeno quello? No, quello non l'ha mai votato. Almeno dice quello l'hai votato. Dice che non ha mai votato. Non potevo votarlo. Ma no. Ma Grillo, scusa, da attore a attore. Così, questo si può chiedere. Da attore a attore. Ma non faceva bene a stare a casa invece di mettersi in politica? No, ha fatto bene, dici tu. Ha smosso le acque, dici tu, no? Un po' di casino l'ha fatto. Cioè, non è che non lo rimproveri da questo punto di vista. No. E adesso come ti sembra? Un po' mosciato, no? Sì, un po' mosciato. Però manca un po' al palco, no? Quel Grillo di una volta. Cioè, dovrebbe tornare un po'. Ha trasformato tutto. Un po' si vedeva anche gli ultimi spettacoli prima di buttarsi in politica, un po' già c'era dentro il politico. Sì, è vero. Parlava sempre di queste cose. Gli spettacoli erano un po' pesanti, diciamo. Ha smesso proprio, insomma. Ha smesso, e vabbè, ma tu non ci hai mai pensato, no? No, io sono ignorante, non posso. Vabbè, ma sai, in politica da questo punto di vista, come sai, non è che. Non posso. Ma qualcuno te l'avrà offerto in vita tua, no? No, mai. Di candidarti. La radio non la vorresti rifare? Perché lui ha fatto anche la radio, Io la radio fino a qualche tempo fa la facevo su Radio 2 con Simone Cristicchi. Ah, come no? Certo. Adesso Cristicchi è in giro in tournée a fare quei spettacoli meravigliosi. Sono fermo, però al più presto riprenderemo. Capito? E tanto ascolti la Zanzara spesso? Zanzara l'ascolto tutti i giorni. Questa è una cosa anche positiva. Anche il sabato e la domenica. No, non c'è, perché però non c'è, però può essere un problema. No, ci sono i podcast, però ci sono i podcast. Attenzione, ci sono i podcast e questo è fondamentale. Vabbè, senti Nino, io sono molto contento di averti avuto qui in questo covo di matti. Cosa possiamo come dire? Siamo? Di chi possiamo come ci definisci? Come ci definisci? Due matti, come ci definisci? Due mattoidi, due coglioni. Due seri professionisti. E anche due stronzi ogni tanto. No. no. impegnati che danno al pubblico quello che si aspetta, quello che, beh, questo quello è buono, si merita, non l'ho copiata, questo è buono che l'hai copiata, sì, questo si è capito che l'hai copiata, l'hai letta, sì, adesso eccetera. Senti una sola cosa però, da siciliano, questa ascesa del signor Salvini, no, sì, che adesso sembra essere il nuovo leader del centrodestra, come lo vedi? Cioè ti sta simpatico questo, oppure ti fa un po' paura, un po' torvo per te, come questo, questo sembra troppo scaltro, vedi? Fa danno, fa danno, questo leghismo lepenista, ti ma piace, può fare, no? Bene, può fare bene all'Italia, oppure c'hai paura o no? No, paura no, però però insomma, no, timore. Timore, timore. Ma di cosa? Beh, timore, sei uno del nord, sì, che dice, fino a tempo fa diceva la separazione, le cose, no? Ah, sì, è uno. Comunque, io voglio capire una cosa, perché non ti lascerei mai io in realtà, ti vorrei sempre qui a dire le tue cose. Un nanetto per Renzi, vogliamo fare un nanetto? Non ti è mai venuto in mente un nanetto per Renzi? No, mai. No, io, mai. Io dico la verità, io la satira non l'ho mai fatta, non la so fare. Cioè, un po', diciamo che non è che vado matto per la satira, perché mi piace quella comicità che dopo 20 anni ancora si può, ancora vale. E qual è tipo la comicità? La comicità quella pura, quella di Macario. Quella di Macario, ah, quella di Macario. Eh beh, no, sì, perché no? Diciamo è un altro mestiere, non lo farei malissimo. Quindi, sì, sì, certo, certo. Ma quelli della notte è stata la cosa più. Ogni tanto ti rivedi le cose, oppure il fatto che ti si ricordi sempre per quelli della notte, uno si ricorda quello, ti dà fastidio un po'. No. Non ti, la rifaresti domani mattina? Si può fare ancora secondo te quelli della notte, oppure una roba ormai passata, superata? Che non, no, quelli della notte non era, la forma era normale, era che cosa dicevamo, non era erano i personaggi, che, erano i personaggi che erano capaci di improvvisare e che erano sintonizzati con Arbore, quello era la caratteristica. Certo. Va bene, Nino, ti abbraccio, a presto, ciao caro. Complimenti, ciao, per il programma. Vabbè, che dobbiamo fare? Non è vero che c'è il libro, perché si vedeva quando ho detto il retro. Sì. Non c'hai il libro. No, c'ho c'ho il PDF. Non c'è il PDF, mi hanno mandato il PDF, capito? Appunto, non hai il retro del libro. Neanche la copertina, la potevi. No, la copertina ce l'ho, ci sei tu col coso. Però ci sei bella tu l'idea di avvicinare il PDF, almeno il PDF. Ma il PDF, come faccio col PDF? Beh, è bello lo stesso farlo, avvicino. Ti saluto. Vabbè, ragazzi. Ciao caro, ciao. Ciao. Ciao. Oh ragazzi, andiamo a Luca La Spezia, vai Luca. Cari fratelli e sorelle, io leggo Famiglia Cristiana e voi dalla Zanzara sarete scomunicati. Addirittura adesso. Scherzo. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, buonasera. Ciao Luca. E saluto anche Nicole e tutte le ragazze. Salutiamo Don Shortino, dai, salutiamo Don Shortino, il direttore di Famiglia Cristiana, dai, su. Direttore, omaggi. Omaggi, caro direttore, non ti vogliamo, non te ne vogliamo, non vogliamo la tua. Assolutamente. Non vogliamo. Siamo bravi ragazzi, però ogni tanto ci incazziamo. Adesso, quando qualcuno ci tratta male, sì, quando qualcuno pensa che dobbiamo finire in galera, che siamo fomentatori di odio, eccetera, esatto, eccetera, noi ospitiamo interventi di tutti. E non è vero che uno può dire quello che vuole, perché noi siamo qui, quando è il caso, a bacchettare, a chiudere. Poi, ovviamente, possiamo. Non siamo esseri infallibili, siamo altamente imperfetti. Altamente, d'accordo. Io almeno mi sento altamente imperfetto. Questo anch'io. Certo, siamo imperfetti, essere imperfetti, possiamo sbagliare, quando sbagliamo. Io, diciamo, in questo caso forse ho sbagliato a tenere troppo in onda quel personaggio, però mi è venuto così. Mi piace scandagliare l'animo umano, perché anche la perversione dell'animo umano, anche Donato Davarese, che è uno straordinario personaggio radiofonico, psicotico, a me fa impazzire, perché voglio capire fino a dove si può arrivare. Assolutamente. Nella follia, volendo, nell'invettiva. Beh sì, senza volendo, nella follia proprio. Sì. Ma nell'invettiva, direi, nell'invettiva. Allora Luca, che cazzo vuoi? Scusa, hai chiamato perché volgari, la volgarità. Guardi, io sono della scuola Nappi da questo punto di vista. La volgarità non è nelle parole mi dai un. Io voglio salutarla quella ragazza lì. Saluta la signora Nappi, dai. Saluta la signora. Grandissima signorina Nappi. Amico mio, Luca, la realtà è che tu ti vorresti fare una scopata con la signorina Nappi. Madonna, alla grande proprio. L'ho vista su un cellulare di un mio amico. Su un cellulare, che hai visto? Te la vorresti scopare, punto e basta. Diciamo la verità. Un paio d'ore, 2 o 3 ore. Ma 2 o 3 ore non ce la fai. Ma non ce la fai 2 o 3 ore, signora Nappi. Signora Nappi, dopo 20 minuti ti ha prosciugato già. Ma dopo 20 minuti già ti ha prosciugato la signora Nappi, amico mio. Hai ragione. Ma dove vuoi andare con la signora Nappi? Ci sa fare con gli uomini e sono convinto che saprebbe come ritirarmi su, ecco. Beh, sì, questo sicuramente, però tu 2 ore con la nappi non li reggi, guarda, non, è di, molto difficile. Non è solo stantuffare, fare sesso è anche leccare, accarezzare, farsi accarezzare, capisci? Beh, sì, accarezzare, adesso la signora nappi, accarezzare mi sembra anche un po' eccessivo, cioè non è proprio toccare. Quello. Sì, sì, beh, certo, non c'è dubbio. Vabbè, ragazzi, ciao, ciao ragazzi. Ciao, Aldo, ciao, dalla Sardegna, Aldo. Buonasera, buonasera. Dimmi, caro, dimmi. Allora, dottor Cruciani, secondo me, il mio parere, il mio punto di vista, il 37% che ha votato in Emilia Romagna, pochissimo. Sì. E poi lei dice che tutte le democrazie, è tutto da discutere se votano poco. Ma il 37% a me fa pensare che sono andati a votare solo quelli che vivono di politica. Tra consiglieri provinciali, regionali, che non ci sono più, comunali, comunque. Enti locali, presidenti, relative pompinare, paraculi, tira vicino al 37% ci arriviamo. Questa è una teoria, però non credo che sia quella giusta, caro amico. Ha non parlato credo di io l'ho pensata. No, non sono solo quelli che vivono di politica ad aver votato. Certamente quelli che sono interessati a restare aggrappati alla greppia della politica, alla mammella della politica, sicuramente sono andati a votare. Su quello non c'è dubbio, sono tanti in Italia, però non bastano a fare il 37%. Ci va anche interesse. La gente che lavora c'è andata lì. La gente ma che ne so, adesso lavora. Non è che abbiamo i dati su chi è andato. No, Matteo è da Milano. Dico. Poi è chiaro che Salvini cavalca il malcontento. Vabbè, Aldo, andiamo a Milano. Matteo, vai. Sì, pronto, ciao ragazzi. Senti, dimmi, dimmi. Qui dovevamo mandare Odi Freddi, rimandiamo domani Odi Freddi, che dici Parenzo? Per forza, magari avremo qualcosa in mano in più. La grande vittoria, la nostra grande vittoria nei confronti di Odi Freddi, il signor Odi Freddi, amico mio. Comunque vabbè, domani, rimandiamo a domani, dai Matteo dimmi. Sì, una cosa veloce, ma scusate un attimo, ma non è possibile che dobbiamo pagare il canone della Rai, ovvero io pago Sky perché mi piace e lo compro, sì. L'abbonamento Sky, sì. Mi piace la Rai, compro la stessa Rai. Quello è sì, è vero, è il mio ideale di televisione, ognuno compra quello che vuole, ognuno paga quello che vuole. Purtroppo, nella storia dell'Europa soprattutto, abbiamo le televisioni pubbliche no, che una purtroppo. Volta avevano un senso, che secondo me una volta avevano un senso. No, è che la Rai ormai è un carrozzone che per se uno lo togliesse il canone dovrebbero licenziare non so quante persone. Donato da Varese sarebbe con... lo so Matteo, ma io sono d'accordo con lei, non è che le do torto, cioè, è un sistema ormai assurdo che non ha più perché senso delle obbligare. Compriamo quello che ci piace. Sì, sì, ma sono perfettamente d'accordo. Antonio da Roma. Antonio da Roma. Pronto? Vai Antonio, dimmi. Pronto? Parla però, amico mio, dai. Sì, va bene, non ti arrabbiare. No, e chi si arrabbia? Volevo dire, no, il problema di Roma non è soltanto alla periferia di Roma, ma anche al centro, perché se tu vai alla stazione Termini, sì. Ormai lì alle macchinette automatiche non riesci più a fare il biglietto. Questa è una vecchia storia, spero che a Termini ne abbiano risolta però, perché se ma ancora... No, scusa se ti interrompo, io potrei suggerire la soluzione, sarebbe quella di fare una fascia rossa tipo lo stadio intorno alla stazione Termini, con gli steward, sì. E poi mettere i tornelli che al biglietto entra. Vabbè, che è una puttanata che farebbe perdere tempo a un sacco di gente che deve andare a lavorare e passare per la stazione. Allora ci dobbiamo tenere i rom. Ci sono dei rom che sono lì alle macchinette, se rompono i coglioni uno chiama la polizia, ma amico mio. Questo è il punto. Privata. Può darsi. Comunque, se qualcuno rompe i coglioni nelle macchinette, non fa fare i biglietti, ruba, basta chiamare la polizia, arrivano e li arrestano, punto, e basta. Certo, spesso si addensano, vanno lì, rompono il cazzo alle signore anziane. È così, è la realtà. Altri invece suonano amabilmente in metropolitana. Adesso, amabilmente, diciamo. Non esageriamo. Ci sentiamo domani. Vai. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Non è bello ciò che è bello, ma che è bello, che è bello, che è bello. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Fatta culo! Radio 24. La passione si sente.